Questa settimana ho avuto il piacere di entrare in una casa che avevo già visto, una casa vecchia che necessitava una ristrutturazione, e in questa settimana ho potuto vedere i lavori che sono iniziati in questa casa. E questa casa era già carina, ma ad un certo punto sono arrivati muratori, distruttori, perché i muratori sono un po' distruttori, prima di cominciare a costruire demoliscono tutto, hanno cominciato a demolire bagni, pareti. E mentre demolivano queste cose, io sono arrivata dopo che hanno cominciato a demolire, quindi c'erano tutte le macerie, e dove c'era un bagno, fino praticamente al giorno prima, è venuta fuori un architrave. Non sappiamo cos'è, un arco in pietra che fino a quel momento era stato nascosto dal muro del bagno. E poi sono andata in un'altra stanza e hanno cominciato a rompere il pavimento e hanno scoperto che dopo 30-40 centimetri sotto il pavimento che si vedeva è venuto fuori un altro pavimento. Quello che c'era sopra era un pavimento bello, ma era comune, era abbastanza standard. Quello che c'era sotto era unico. Erano delle cementine tutte intagliate con dei fiori che erano proprio tridimensionali, direi, no? Che al tatto si toccavano. E tutta questa roba che è venuta fuori, andando a guardare la storia di questa casa, ha circa 100 anni. Questo architrave che è venuto fuori così dal nulla, sta mantenendo in piedi questa palazzina da circa 100 anni. Quel pavimento spettacolare è di base a questa palazzina da oltre 100 anni. E questa, non so, ci sono dei momenti in cui veramente il Signore ti parla e non ti eri preparato a ricevere questo. E poi sono tornata a casa, ma sentivo che lo Spirito Santo mi stava dicendo qualcosa. E così ho detto, bene, questo voglio condividere con la mia chiesa bellissima oggi. Chi di noi sta combattendo? Chi di noi è in fasi complesse? Chi di noi si sente rotto, demolito per essere ristrutturato? Forse stai vivendo delle fasi particolari in cui sono entrati dei muratori e continuano a trapanare sperando di trovare qualcosa, o continuano a demolire sperando di trovare qualcosa. Bene, io voglio darti questa parola profetica: tu sei fatto per cambiare e tutto quello che verrà fuori da te è il meglio di quello che c'è in te. Tutto quello che sta venendo fuori è esattamente per farti essere ancora più bello, per risplendere ancora di più della potenza e dell'autorità di Cristo Gesù nella tua vita. Io sto confessando su di me, su tutti quanti noi, che tutte queste fasi complesse che forse stiamo vivendo ci facciano vedere, ci facciano gustare queste architravi che possono venire fuori da noi, questi pavimenti unici che possono venire fuori da noi. Perché? Non perché noi siamo così, ma perché Dio ci ha fatto così. Tu sei stato fatto in un modo unico, irripetibile, stupendo, straordinario, e non perché noi meritiamo qualcosa, ma perché il nostro Dio ha deciso di innestare in noi il suo DNA, e con il suo DNA noi diventiamo migliori dopo le ristrutturazioni, noi diventiamo più forti, noi diventiamo più risplendenti, diventiamo delle testimonianze più potenti della potenza che Dio ha usato in noi proprio nelle situazioni in cui noi ci sentiamo più demoliti, più frustrati, più abbattuti. Chi di noi vuole dire, oh Sara, l'anno prossimo verranno fuori degli architravi straordinari, posso vedere? Magari sei ora in una fase di demolizione, magari sei ora ancora con sti muratori in casa che vengono lì a rompere parti delle cose. Forse stai vivendo proprio delle fasi così e so che molti di noi stanno combattendo per questo. Sappi che da te verranno fuori degli architravi straordinari. Sappi che da te verranno fuori dei pavimenti straordinari. E non perché noi lo meritiamo, non perché siamo meritevoli di qualcosa, ma perché il nostro Dio inserisce in noi la sua potenza per farci risplendere della sua gloria. E oggi ve lo voglio spiegare in un modo specifico. Voglio cominciare con questo. Per quanti di noi proprio dicono, ma io volevo essere come prima, volevo stare nella situazione di prima, volevo che non mi fosse capitato nulla. Quanti di noi vorrebbero fare l'RVM di questo anno, no? Tornare il primo gennaio. Chi di noi dice, ma il primo gennaio stavo meglio del cos'è oggi, 10 dicembre. C'è qualcuno che dice stavo meglio quando stavo peggio? No. Bene. Qualcuno dice, ma vorrei essere al 31 dicembre 2024, vediamo quello che succede da qui a, non lo so, no? Un paio di noi vorrebbero, forse. Tu sei stato creato per cambiare. Ed è proprio questa potenza di cambiamento che ci rende più risplendenti. Noi non siamo stati creati in maniera statica, noi non siamo stati creati in maniera fissa. Noi siamo stati creati proprio per cambiare e ve lo voglio dimostrare. In prima analisi tu nasci e cambi. Io sono zia fresca di una neonipotina, di una nipotina bellissima che si chiama Esther Nora, che somiglia tantissimo a me ovviamente, quindi c'è il papà, non posso dirlo ad alta voce, papà diventi, va bene. L'ho vista quando è nata. E dopo 2 ore era cambiata, e dopo 2 giorni è cambiata ancora, e ora, a 2 settimane e mezzo, a 3 settimane domani, giusto? Sì? È cambiata ancora, perché noi nasciamo e cambiamo. Non c'è un momento in cui noi rimaniamo gli stessi. Il secondo cambiamento è quando noi nasciamo di nuovo. Quando tu nasci di nuovo, quando Cristo Gesù entra nella nostra vita e si rivela come il nostro personale salvatore, noi viviamo una esperienza, oggi lavoreremo su questa parola, esperienza di nuova nascita. E quindi cosa facciamo? Noi cambiamo di nuovo. Tutto quello che eravamo fino a quel momento diventa vecchio. E la Bibbia ci dice che da quel momento in poi tutte le cose diventano nuove. E quindi cominciamo a cambiare da dove? Non esternamente, cominciamo a cambiare da dentro, cominciamo a cambiare dal nostro destino di vita. Fino a quel momento noi ereditavamo la morte per il nostro peccato, ma da quel momento in poi noi ereditiamo la vita eterna. E quindi noi diventiamo persone che in speranza vivono una vita eterna, noi diventiamo persone che sono perdonate. Fino a quel momento noi meritavamo giustizia per tutti i nostri peccati. Da quel momento in poi Cristo Gesù diventa la giustizia per i nostri peccati, perché veniamo giustificati, ed è da quel momento in poi che noi cominciamo a cambiare. Terzo cambiamento, questo cambiamento che inizia con la nostra nuova nascita va avanti attraverso un processo che si chiama processo, segnatevi anche questa parola, processo di santificazione, fino a quando noi non moriremo e incontreremo Gesù. È un processo che tende verso il cambiamento. Quindi nasciamo e cambiamo, nasciamo di nuovo e cambiamo, viviamo e cambiamo per diventare come, per cambiare e diventare come Cristo Gesù. Quindi tutto quello che noi facciamo nella vita è vivere in un processo di cambiamento. Ti piacciono i cambiamenti o non ti piacciono i cambiamenti? Questo è il nostro destino di vita. Tu sei stato creato per cambiare. 2 versi di riferimento. 1 Tito 3, dal verso 3 al verso 7 dice, perché, e questo è proprio il cambiamento che viviamo, il nostro secondo cambiamento, no? Quello della nuova nascita, è il primo è nasciamo e cambiamo. Noi cambiamo in questa misura, Tito 3, perché anche noi un tempo, quindi fino all'attimo prima di accettare Gesù come nostro personale salvatore, siete con me, Chiesa, sì? Noi come eravamo? Insensati, ribelli, traviati, schiavi, sottolineiamo schiavi, di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo dove? Nella bontà? No, eravamo nella cattiveria. Nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Com'è chiaro, Tito? Questo eravamo noi prima di conoscere Gesù. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Ascolta ora, mediante il lavacro, praticamente una lavatrice di quelle enormi con una centrifuga eterna, mediante il lavacro, ascolta ora, della rigenerazione e del rinnovamento. Noi veniamo rigenerati, noi veniamo rinnovati, in che modo? Dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore. Sembra un compendio della Bibbia questi versi, affinché giustificati nella sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Amen. Noi nasciamo e cambiamo, nasciamo di nuovo e cambiamo attraverso un processo di rinnovamento e di rigenerazione. Leggiamolo ancora in un altro verso. Quindi primo processo, nasciamo e cambiamo. Secondo processo, nasciamo di nuovo e cambiamo. Terzo processo, un processo che finisce solo quando noi incontreremo Gesù. Quindi un processo di cambiamento che tende verso la santificazione. Romani 12:2 dice così: non conformatevi a questo mondo, ma, leggiamo insieme, siate trasformati mediante cosa? Il rinnovamento della nostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Voglio sottolineare alcune parole su cui oggi lavoreremo insieme. La prima è trasformati. La parola che viene utilizzata nell'origine è proprio metamorfosi. Cioè non è ci trasformiamo in parte, non lo so, prima ero scura, poi ho fatto i colpi di sole, mi sono trasformato i capelli. No, no, non è questo. Poi ho perso 20 kg. No, non è trasformarsi in una parte. La Bibbia parla di una metamorfosi. La parola metamorfosi letteralmente significa cambiare forma. Eri schiavo e diventi libero. Ti piace? E dovevi pagare e sei stato graziato. Ti piace? Vieni trasformato in una metamorfosi, in un cambio di forma. Ancora, attraverso che cosa? Il rinnovamento della nostra mente. La parola rinnovare, ancora, a quelle origini che voi vedete, e parla proprio, una definizione specifica è cambiamento per il meglio. Cioè tu non butti una cosa vecchia per fare un downgrade, cioè non prendi una cosa nuova per stare peggio, ma nel rinnovamento c'è un miglioramento automatico, cioè prendi una cosa nuova ed è meglio di quella di prima, ok? Ti piace? Quindi basta dire, quando ero giovane, ma dovevi vedermi, perché nella parola di Dio noi abbiamo una chiara conferma che più diventiamo simili a Lui e meglio diventiamo. Ma prima ero più furbo, male, dispiace per te, ora sei più scemo, bene così. Perché? Perché diventiamo migliori. No, ma prima, sai, se qualcuno mi faceva un torto, ora sarebbe passato davanti a me. Male, ora invece ti prendi il torto e gli dai anche l'altra guancia, perché questo è un rinnovamento. E un rinnovamento prevede che noi diventiamo migliori di prima. Ascolto spesso testimonianze di credenti che si sentono meglio prima, quando erano peccatori, di quando sono ora rinnovati in Cristo. Chiesa, stiamo perdendo qualche coordinata. Forse avevi più, non lo so, più fama o più soldi prima, non lo so. Ma sappi che prima eri morto e ora sei vivo. Sappi che prima eri schiavo e ora sei libero. E questo processo non è un processo per il peggio. Questo processo ci dà garanzia che è per il meglio. Ti piace questo? Questo processo vuol dire che noi entriamo in un matrimonio in cui forse ti sei convertita, ti sei convertito, e il tuo matrimonio va meglio, e la tua azienda va meglio, e la tua famiglia va meglio, i tuoi figli stanno meglio. Perché? Perché abbiamo una garanzia che questo processo è un rinnovamento per qualcosa di meglio. Ci piace? Benissimo. Siamo tutti d'accordo? Se qualcuno non è d'accordo, proprio non mi interessa, questa è la Bibbia, ok? Quindi dobbiamo noi uniformarci a questo pensiero e non la Bibbia a noi. Terzo concetto, come ci rinnoviamo? Ora sapete che c'è tutta questa mentalità sul botulino, no? Io e mio marito ci siamo comprati delle creme miracolose che costano 1,50 euro. non posso fare grande pubblicità alla marca da dove abbiamo comprati, ma abbiamo comprato questa crema con l'acido glicolico, il botulico che sembrava che ci dove, no, l'abbiamo messa, ci siamo guardati, amore, siamo diventati 20 anni più giovani. Cioè che o ti convinci, perché sennò costata 1,50 euro, l'acquisto migliore, si vede, abbiamo fatto un grande acquisto, è l'acquisto migliore del 2023, proprio recensito. Perché? Perché abbiamo creduto che questa crema ci rinnovasse le cellule dall'interno. Poi abbiamo scoperto che alcune cellule non si possono rinnovare da sopra, ma devi metterle dentro. Per questo il concetto del botulino è iniettare. Ok, detto questo principio di estetica, non lo so. Quindi, cari, che stiamo spendendo un sacco di soldi per le creme, sappiate che purtroppo non funziona. Vabbè, brutta notizia oggi, mettile nell'offerta questi soldi che sicuramente ti ringiovanisci. Quindi, noi stiamo vivendo un cambiamento che non è dall'esterno, perché allora servirebbero medici estetici, i migliori parrucchieri, i migliori make-up artist, personal trainer, e allora saremmo migliori da fuori. Ma quello che opera, quello che è il lavoro di Dio in noi, parte dal nostro interno. Ed è dal nostro interno, ed è da dentro, che noi cambiamo verso fuori. E il nostro rinnovamento non parte dalle mani. Io faccio delle opere migliori e poi le penso. Non parte dai nostri piedi, vado in missione e poi penso di... No, il nostro cambiamento, rinnovamento, parte dal nostro centro di comando, che è la nostra mente. Ora, questo verso in mano ad una psicologa è molto pericoloso. Ho 10 minuti, ma... staremo tutto il pomeriggio insieme per parlare della nostra mente, giusto? Chi vuole rimanere con me per parlare della nostra... Bravi, grazie, grazie, siete fantastici, vi farò tanti regali dopo. Parliamo un attimo della nostra mente. Questa parola esprime non solamente il concetto di mente. La parola specifica che viene utilizzata in questo contesto biblico ha a che fare con queste cose qui, e cioè intelletto. La parola che è usata per mente viene dalla parola gnosco, che è conoscere, che è la nostra capacità di apprendere, di conoscere, di comprendere il mondo, e fa riferimento all'intelletto umano e anche divino. Quindi fa riferimento ai pensieri, ai sentimenti, al mondo assurdo delle emozioni che abbiamo, proviene sempre dalla nostra mente, dalla nostra volontà, dalla nostra facoltà di percepire o di comprendere, la nostra maniera di ascoltare, di sentire il mondo, di giudicare, la nostra capacità della verità spirituale. Vi ricordate quando Gesù dice in grazia è verità? No? Sta parlando proprio di una verità che è intellettuale, che è mentale. Perché Dio parte da qui, è qui che inserisce, nella nostra mente che inserisce la sua verità. Siete ancora con me o vi ho perso? Vi ho perso. Ok. La nostra potenza dell'anima, la capacità di percepire le cose divine. Per questo io chiamo la nostra fede una fede razionale. Proprio perché è così. Percepire le cose divine non è una cosa emotiva, non è un'esperienza, oh che bello, no, no, no. Percepire la fede è un'esperienza razionale, viene dalla nostra ragione. Io sono convinto qui che il mio Dio è un Dio potente. E poi di conseguenza agisco. E ancora significa di riconoscere il bene, ascoltate bene, e di odiare il male. Questa è la sapienza, viene sempre dalla mente. La capacità di scegliere con sobrietà, la calma, l'imparzialità, il modo di pensare e di giudicare, gli scopi e i desideri. Fin qui abbiamo capito un paio di cose, nasciamo e cambiamo, nasciamo di nuovo e cambiamo. Fino a quando vivremo noi cambiamo, e attraverso che cosa? Un processo di cambiamento, che è un rinnovamento che parte dalla? Che parte dalla? Bellissimo. Ci piace fino a qui? Però fatemelo spiegare da psicologa. Cominciamo un momento quark. Vi voglio dimostrare che questo verso, anzi che le neuroscienze finalmente riescono a dimostrare quello che la parola di Dio aveva scritto migliaia di anni fa. con un'invenzione, anzi no, con una scoperta che è recentissima. Negli scorsi 10 anni i neuropsicologi, i neuropsichiatri studiosi hanno scoperto questa capacità della mente. Ve la faccio leggere. Vai con la parola, diciamolo insieme. Difficile? Ci piace. Prima di questi 10 anni, gli studiosi pensavano che la mente fosse abbastanza statica. No, Marco? Dottore? Negli ultimi 10 anni gli studiosi ci dicono, attenzione, la mente può cambiare. Gesù ce l'aveva detto un bel po' di anni fa. Vi faccio vedere un brevissimo video su che cosa è la neuroplasticità e poi ve la spiego meglio. Vai, 2 minuti dura. Non molto tempo fa molti scienziati ritenevano che il cervello non cambiasse dopo l'infanzia, che fosse già predefinito e fissato al momento in cui diventiamo adulti, ma i recenti progressi compiuti solo nell'ultimo decennio ci dicono che questo non è vero. Il cervello può cambiare e cambia nel corso della nostra vita, è adattabile, come la plastica. Ecco perché i neuroscienziati la chiamano neuroplasticità. Come funziona la neuroplasticità? Se pensiamo al nostro cervello come a una rete elettrica dinamica e connessa, ci sono miliardi di percorsi o strade che si illuminano ogni volta che si pensa, si sente o si fa qualcosa. Alcune di queste strade sono ben percorse, sono le nostre abitudini, i nostri modi di pensare, sentire e fare. Ogni volta che pensiamo in un certo modo, eseguiamo un particolare compito o proviamo un'emozione specifica, rafforziamo questa strada. Diventa più facile per il nostro cervello percorrere questa strada. Se pensiamo a qualcosa di diverso, impariamo un nuovo compito o scegliamo un'emozione diversa, iniziamo a una nuova strada. Se continuiamo a percorrerla, il nostro cervello comincia a utilizzare maggiormente questo percorso e il nuovo modo di pensare, sentire o fare diventa naturale. Il vecchio percorso viene utilizzato sempre meno e si indebolisce. Questo processo di ridefinizione del cervello formando nuove connessioni, indebolendo quelle vecchie, è la neuroplasticità in azione. La buona notizia è che tutti noi abbiamo la capacità di imparare a cambiare il nostro cervello. Se avete mai cambiato una cattiva abitudine o avete pensato a qualcosa di diverso, avete scavato un uovo nel vostro cervello e avete sperimentato in prima persona la neuroplasticità. Con un'attenzione ripetuta e diretta verso il cambiamento desiderato, è possibile ridefinire il cervello. Finito? Finita la voce? Bene. Abbiamo capito che cos'è la neuroplasticità, è la capacità del nostro cervello di cambiare. Incredibile. Se prima era settato su un modello, su delle strade precise, Dio ha messo in noi questa capacità. E cioè tu puoi cambiare, tu sei fatto per cambiare. Attraverso che cosa? Il rinnovamento della nostra mente. Se prima pensavi che la vita fosse solo nella schiavitù, ad un certo punto Dio ti dice no, sei libero, puoi non fare più queste cose. E allora cominci a vivere delle nuove abitudini e nel nostro sistema nervoso si creano delle strade nuove. Noi veniamo cambiati dalla nostra mente. Ed è lì che questa cosa è gloriosa. Non so, da psicologa dico, Signore Gesù, grazie. Perché tu mi hai resa perfetta anche per cambiare. Ti piace? Quindi se tu, no, mia suocera dice sempre, chi nasce tondo non può morire quadrato. Non è vero, la neuroplasticità ci dimostra che se nasciamo tondi, oh, possiamo morire quadrati, perché tendiamo verso il cambiamento. Come funziona questa neuroplasticità? È qualcosa che c'è in noi, è qualcosa che può essere appresa. Buone abitudini incrementano la nostra capacità, la nostra neuroplasticità. Però vi voglio spiegare al volo, ma non fatemi fare quark, però 3 tipi di neuroplasticità differente. La prima è quella che si chiama strutturale, cioè se una parte del tuo sistema nervoso muore, facciamo un esempio pratico, se hai assunto sostanze per tanto tempo, una parte del tuo sistema neuronale si spegne. Se vedete gli elettroencefalogrammi di persone che hanno vissuto una dipendenza per tanto tempo, vedrete che alcune parti sono fortemente compromesse. Se hai vissuto un trauma, può essere anche che alcune parti si siano compromesse. E forse non puoi fare più delle cose, perché alcune aree del sistema nervoso si spengono. Questa neuroplasticità strutturale ci dice che un'altra parte del sistema nervoso può fare delle cose che sono state spente in quella parte. Che bello! Ti piace? Un'altra neuroplasticità è questa, è funzionale. e cioè tu puoi imparare a fare cose nuove. E questa è la neuroplasticità che viene fuori con lo sviluppo. Prima non sapevi guidare, poi apprendi questa capacità, impari a guidare. Quindi il tuo sistema nervoso cambia. Ma la neuroplasticità che mi piace di più è il terzo tipo, ed è la neuroplasticità esperienziale. Vi ricordate cosa abbiamo letto prima? Affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, perfetta, gradita volontà di Dio. Mentre facciamo un'esperienza di Cristo, noi conosciamo come vuole Lui. Che bello. Allora, prima facevo il male, poi capisco che il mio Dio non ha questa volontà. Lui mi insegna che ha una volontà diversa. Io posso cambiare per esperienza appresa dal conoscere il nostro Dio. Se punto a un tipo di neuroplasticità nella vita, se dobbiamo puntare proprio questa esperienziale, mentre facciamo esperienza di Cristo, noi cambiamo. Tu puoi cambiare mentre fai esperienza di Cristo. Che significa questo? Significa vivere Cristo Gesù in quello che fai, in quello che vivi. Signore, se è una porta tua, allora aprila. Ma se non è una porta tua, fai in modo che io non ci metta neanche un piede lì. Signore, se tu devi chiudere una porta, chiudila davanti a me. Signore Gesù, cosa devo fare in questa circostanza? Come devo trattare la mia sessualità? Cosa pensi tu della mia famiglia? Cosa pensi tu del mio matrimonio? E allora lì conosciamo per esperienza. Per esperienza. E lì la nostra mente cambia. Allora non pensi più come i tuoi amici, non pensi più come i tuoi colleghi sullo stesso punto. Fino a 10 minuti prima la pensavi come loro, fino ad un giorno prima la pensavi come tutti quelli che pensano su Facebook qualcosa nella stessa maniera, ma siccome hai chiesto a Cristo Gesù come si fa questa cosa e Cristo Gesù te la rivela, noi abbiamo l'opportunità di cambiare idea e di cambiare le nostre azioni attraverso questo cambiamento. Ti piace? Questo ci dice che non abbiamo più scuse per rimanere come siamo. È difficile, è vero, ma più di Cristo in noi, più di Cristo in noi. Voglio darci delle chiavi. Giusto un'altra bella notizia. Sapete chi è dotato di maggiore neuroplasticità? Indovinate, i bambini. Cosa ha detto Gesù? 2000 anni fa, fate come loro, fate come loro. Noi sappiamo che i nostri figli hanno una facilità a cambiare straordinaria, ora sappiamo anche il perché, perché sono dotati di una capacità neuroplastica straordinaria. Questa capacità, ahimè, muore, ma può essere poi riappresa. Giusto una parentesi, a noi famiglie con bambini, quello che sta accadendo in questo momento dall'altra parte del corridoio è rinnovare la mente dei nostri figli con tutto quello che c'è di buono. E allora io voglio fare un appello a tutti i genitori, a genitori che ci ascoltano da casa, a noi che siamo presenti. Per piacere, non facciamo mancare questo incontro ai nostri figli. Facciamo di tutto per non far mancare un incontro ai questi figli. Dobbiamo prendere la macchina e venire sotto la pioggia, fallo, fa freddo, piove, ma c'è vento, c'è la neve, ma ai bambini non gli interessa per niente. Ma quello che sta accadendo in questa ora è soprannaturale. Qualcuno, benedetto da Dio, preparato, sta innestando delle idee soprannaturali nelle menti dei nostri figli. E i nostri figli da questo attimo in poi saranno differenti, cambiati attraverso questa parola spirituale, questa verità. Genitori, noi dobbiamo investire in questo. Nonni, zii, non comprate la PlayStation, no. Prendete un impegno con i vostri nipoti, anche se i loro genitori non vengono in chiesa, prendi un impegno di portare i tuoi nipoti in chiesa, prendi un impegno di andare a fare il giro del quartiere per portare i bambini in chiesa, perché quel seme seminato porterà un frutto straordinario. Ehi, non ti va perché hai lavorato tutta la settimana, senti, i tuoi figli hanno bisogno di quel momento, sento proprio di farlo questo appello. Perché ora arriva l'influenza, se dobbiamo pregare per un miracolo, preghiamo che i bambini stiano bene, non per andare domani a scuola, lo so che noi genitori lo facciamo, ma perché possano venire in chiesa. Amen? Poi si possono pure ammalare da domani, ma che vengano in chiesa e che ricevano quello che devono ricevere. Quindi dobbiamo fare come i bambini, imparare a cambiare, imparare ad essere semplici, imparare a credere a quello che gli viene predicato, metterci un amen a quello che gli viene predicato. Forza, chiesa. Questo è il consiglio che ci ha dato Gesù. Sii neuroplastico come un bambino. Voglio darci delle chiavi per concludere. Prima di tutto, non avere fiducia nel processo di cambiamento. Non è in quello che devi riporre la tua fiducia. No? Abbiamo visto anche le immagini, no, del video, che è un video preso online, la meditazione. Sì, sì, il simbolo che dovremmo avere non è la meditazione buddista, ma è in ginocchio. Perché ricordiamoci che il primo a parlare di meditazione non sono stati i maestri buddisti, ma il primo a parlare di meditazione è il nostro Signore Gesù Cristo, che ce l'ha suggerito nella parola di Dio. Vi ricordate in Giosuè che cosa c'è? Medita la parola, giorno e notte. Ora, nel 2023, tutti si sono appropriati di questa parola. Tu fai meditazione. Un giorno una persona mi ha detto: sai che la mia vita è cambiata perché faccio meditazione. Ho detto: sì, ma su cosa mediti? No, medito. E tu fai meditazione. Ho detto, ma io medito sulla verità. E come sono questi pensieri veri? Lo vuoi leggere con me, un pensiero vero? L'ho detto proprio così, ho preso il telefono, non avevo la Bibbia cartacea con me, ho cominciato a leggerli senza dirgli: sai, questa è la Bibbia, no? Ho detto: guarda, io sono stato creato in modo stupendo perché tu mi hai amato sin dall'inizio, Signore. Ho cominciato a leggere dei versi, belle queste frasi di meditazione, ma guarda, queste non te le ha dette il maestro super famoso che si fa pagare su Facebook per dire due stupidaggini messe bene insieme, ma questi pensieri di meditazione sono veri e vengono dalla parola di Dio e funzionano da oltre 2000 anni. Quindi, chiesa, sapete che uno dei metodi per accrescere la nostra neuroplasticità è la meditazione, ma non quella finta della mindfulness, non so, il sole che sorge da una parte, ci allineiamo con i pianeti, questa stupidaggine qua. No, no, ti allini con la parola di Dio, leggi la verità, stai alla sua presenza, vivi nella cameretta. Un altro metodo per incrementare la neuroplasticità, se lo volete sapere, è dormire. Amen, grazie Gesù. Gesù ha deciso così. E l'altro è fare sport. Quindi, però, diciamo, lì mio marito si è un po' stizzito per questa cosa. Gli studiosi dicono 150 minuti a settimana di sport moderato. Abbiamo fatto il conto oggi, circa 30 minuti al giorno. Si può fare, diciamo, anche meno. Cioè fai le scale su e giù e vai, alla grande. Di sport moderato, quindi tutti gli sportivi non state aumentando la vostra neuroplasticità. Però chi fa su e giù delle scale, sì. Non avere fiducia nel processo. Non è lì che devi mettere la tua fiducia. Il processo è vuoto. Non avere fiducia nel processo. Abbi fiducia in chi innesca questo processo e in chi lo porta a compimento. Voglio leggerti due versi. Uno è Ebrei 12:2, tenendo gli occhi su Gesù, colui che è l'autore e quindi colui che ha disegnato gli architravi, e il compitore, colui che porta a termine. Su questo dobbiamo tenere i nostri occhi. Un altro verso è Filippesi 1, avendo questa convinzione che chi ha cominciato un'opera buona in noi certamente la porterà a compimento. Non perché siamo bravi o perché, ma perché possiamo risplendere fino al giorno di Cristo Gesù. Perché è quel cambiamento che Cristo Gesù vuole in noi. Quindi non riporre la tua fiducia nel processo. Non lo capiamo a volte, non ci piace, lo rinneghiamo. Riponi fiducia in colui che innesca questo processo. È colui che è in grado di portarlo a buon fine. E un'altra cosa che voglio suggerirci è: gli altri sono nel processo con noi. Elargisciti grazia, perché stai cambiando, ed elargiscila anche agli altri. Anche gli altri sono nel processo con noi. E allora il tuo capogruppo non è Gesù sulla terra. Che grande novità. Ha sbagliato nei tuoi confronti. Come mai? Tuo marito non si è svegliato con le parole: strano, tu non sei nel meglio. Ah, ora sappiamo perché. Siamo nel processo. E concediamoci grazia e concediamola anche agli altri. Gli altri sono nel processo con noi. Sì, tu sarai arrivato su quel punto con cui gli altri hanno sbagliato con te, però tu non sei arrivato ad un altro punto che il tuo capogruppo magari ha già conquistato, o il tuo pastore, il tuo responsabile, tua moglie, tuo marito, tutti coloro con cui ci confrontiamo. Siamo insieme nel processo e non c'è un'occasione migliore di ricordarci questo proprio oggi, perché abbiamo la cena del Signore. Gesù ha fatto, si è dato, si è spezzato, si è rotto per noi, ma non lo ha fatto con uno, lo ha fatto con i suoi, per non farci dimenticare la dimensione comunitaria del vivere Cristo Gesù. La Chiesa infatti è corpo di Cristo. Allora, quando prendiamo oggi quel vino e quel pane, abbiamo la possibilità di ricordarci che tu sei nel processo, che grazie a quel vino e a quel pane il processo è stato innescato in te, che devi darti grazia e che forse devi darla anche a qualcun altro, che sta prendendo lo stesso pane e lo stesso vino, che è stato cambiato dallo stesso pane e dallo stesso vino e che è nel processo con te affinché quel pane e quel vino compia un'opera completa in noi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. E voglio proprio fare un appello nel prendere la cena del Signore. Sappiamo, no? Conosciamo bene tutti i versi che parlano di questo, di apprestarsi alla cena del Signore analizzando se stessi, eccetera. Io ti chiedo oggi proprio di avvicinarti all'autore e al compitore con questa prospettiva, con una prospettiva di un processo, con una prospettiva di grazia, di una prospettiva di grazia per te e una prospettiva di grazia per gli altri. E se devi mettere a posto qualcosa, fallo. In te, con gli altri, forse con qualcuno che non è qui e forse dovrai prendere un appuntamento in settimana. Forza, facciamo in modo che questo sangue e questo vino sia reale per noi. Amen. Vogliamo pregare un attimo insieme, che sia un momento di consacrazione, Chiesa. Ti piace? Consacriamoci a Lui. Forse devi consacrare il tuo matrimonio. Forse devi consacrare il tuo matrimonio. Tua moglie è nel processo, tuo marito è nel processo. Fai in modo che questo sangue e questo pane spezzato significhi qualcosa per la tua casa. Forse devi perdonare. Forse devi togliere davanti questo documento di morte che ha messo fine nel tuo matrimonio. Forza, non rendiamo questo pane e questo vino inutile. Forse devi rimettere questo pane e questo vino al centro di qualche relazione. Forse devi rimettere questo pane e questo vino al centro di un'area della tua vita. Sei nel processo. Vogliamo pregare che non sia un momento scontato. E ricordo a tutti coloro che non hanno ancora fatto il passo del battesimo in acqua, di non prendere il pane e il vino, ma rimaniamo qui avanti per pregare per te, se vuoi che preghiamo per te. Se vuoi prendere questo tipo di decisione in maniera consapevole, in maniera libera, ma anche con sincerità. Preghiamo insieme? Ci va? Ci ho fatto deprimere? Vi ho dato un sacco di buone notizie. Apprestiamoci alla cena del Signore con tante buone notizie, glorificando il nostro Dio. Signore, grazie, perché come scritto nella tua parola, tu hai benedetto il pane, benedetto il vino, e ti sei dato come simbolo, Signore, di tutto quello che stavi per compiere. Grazie che l'hai fatto tu e l'hai fatto una volta per sempre. Prego di benedire questo momento, che possiamo vivere come Chiesa proprio una sacralità dell'approcciarci a te, proprio presentandoti ogni area, arrendendoti ogni area. Ti prego, Signore, se sono matrimoni, relazioni, aree della nostra vita, opera tu, Signore, nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Forza.